La Anthony Perkins Productions presenta Harry Burr, 45 minuti ai margini dell'arte. Ascoltatori di Radio ZM, benvenuti a questa nuova puntata di Harry Burr, Arte dai margini, prodotta dalla Anthony Perkins Production e condotta da me medesimo Luca. Anthony Perkins Production che ha da poco raggiunto la bella età di 35 anni 90, 2025 tra Livorno e Milano, le due mie città. In un certo senso. Stasera parliamo di Annibale Ruccello, commediografo napoletano della generazione tra gli anni 70-80 che purtroppo ci ha lasciato a soli 30 anni per un drammatico incidente stradale, quando aveva fatto in tempo a scrivere un piccolo gruppo di opere che ancora adesso rappresentano un rinnovamento del teatro napoletano e italiano che purtroppo non è potuto arrivare fin dove poteva arrivare. Lo ascolteremo ovviamente con spezzoni sonori, non è Harry Burr, non ha ambizioni monografici, spezzoni ovviamente che comprendono anche delle voci del suo teatro. Buon ascolto. Sette montagne, che esagerazione! Ma stai scavando la fossa prima del tempo? Già stai pronto con la vuota a crociare gente? E come la fai pesante? Io sto buono. Tengo un po' di debolezza, ma apro sulle cioccolate. Fosse sul quella. Quanti volte ti hai trovato che ammazzicava tabacca? A bottiglie rosoli rinda credenza e quasi vacante. Chi se l'è bevuto? O spirite va villa? No, Don Catalina. In da due giorni. Quasi un litro rosoli. Hai visto? Ma si chi non lo piace manca. E allora sei stato tu. Tu sei stata. Tu mi arrubi sotto all'occhio. Ti sarà servito per le tue orge notturne. Quando fai a schifoso con Turillo Cicato o figliello Vaiola. Mariola Giacobina. Io mi bevevo rosolia. Io non digerisco una mela cotta. Un bicchiere d'acqua a marone ci vanno 3 ore per digerire. Uè, e poi sa, io sto un ponte morto. E l'urdo moreno condannato te lo dritto e si fa passare tutte le sfizie. Fammi capire, stai buona o stai in ponte morta? Sto un ponte morta. Ma sento come se fosse un miglioramento. Sto buona. Ma può essere pure la migliore la morte. Uè, ma poi c'è racconto a te, Liege. Si è fatta la volontà di Dio. Oggi è sempre Liege. Ha cominciato a vim staccata ieri? No, volessimo cominciare da Medeva. Allora. E poi, questa lingua toscana, avete frusciato lo tafanario a miezzo munno. Vale più una parola napoletana chiantuta che tutte le vocabole della crusca. Che grand'omma, parole sante. E qual autolinguaggio se lo può mettere in paragone? Nessuno. Chi? Buona suonata, chi può essere? Buona suonata, chi può essere? E chi ha da essere? Un gadellino. Che stellore un gadellino? Va, muoviti, va. Ah, Gesualdì, ricordata. Sine. Annanza agli estranei, mia chiamà baronessa. Sine. E mia rovuia. Sine. Come si conviene ad una serva. Sine. Tu mi hai capito buona? Sine. E non dicono sine con che stare indisponente? Sine. che ieri annanzi a Don Catalino tre volte te l'hai scordata, tre. Guarda a me, mi imbroglio mai io, annanzi agli estranei te resti mai conferenzia, te resti qualche voto tu. None. Mm. E ma tu uomo avrà chiara pia, a tre ore in più mazzotta la porta farà la storra meraviglia, va, va, muovata, anzi, muovetevi. Te l'avevi ritta e non ha cominciato a leggere. Ogni giorno la stessa storia. Io non mi ricordo più a due che ci siamo fermati. Tu fai apposta, carogna mia. Serpa maledetta. La certa la varmanara. Chissà quai orni. Tu combini io servizio. Mi scordo che sto malata, ma izzo e me nesco. E crene. Non lo potesse fa. Petite cousine Gesualda, povera cousine virge, tu ne pae pruele plaisir dell'amour, i piaceri della carne, e non li potrai provare mai, perché si brutta, commorebbata, si ingialluta con mamma levera. Povero un gatellino, sa come sa da scucciare quando ti confiesse. E peccato rezzatello con te manca Dio e perdona, perché pur isso sa mostrare in Dio. Ma i peccati miei, chilla sì, chilla era una nata cosa, barone Castaldo, barone Castaldo, sarà stata pure una carogna, marindolietta, tirano leone. E manco mi abbastava. Vi faccio strada, Don Carellino. Grazie, grazie. Ma oramai è una strada che conosciamo fin troppo bene, come quella del purgatorio. Baronessa, è qui Don Catello, che è venuto a portarci un poco di conforto e a ossequiare Vostra Eccellenza. Facitelo tra sì. Padre, la baronessa desidera vedervi. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. E come va? Come va oggi la nostra inferma? E come dai? Come dai? Oh, stupino se sta studiando, un lì. E che ci volete fa? Si è così deciso all'altissimo. E segno che all'angoppa così se va. Già. Sto agli ultimi giorni. Affidatevi nelle mani di Cristo nostro Signore. Qui credit in me non morietur. Lui vi darà la forza di affrontare con serenità gli attimi estremi. Oh, Gadelli, e voi oggi mi parete un malaugurio? E che maniera? È vero che sto qui alla cacca, ma non può che conforto, e che saggio. Pure una bugia, una malata non si nega. E voi pare già che siete venuti con carre morte a basso palazzo. Io, se ci ho vecchio, voglio pregare per l'anima vostra ancora per 20 anni. Ma pure pazienta, pure pazienta. E io appunto questo dicevo. Oggi la baronessa è l'immagine della salute. E avete sempre essere esagerato. Non tenete moderazione, maniera. O è bianco o è nero per voi, eh? D'altra parte, io voglio questa maniera a voi. Voi avete studiato. Avete tanto studiato, avete studiato assai. Grazie alla buon'anima del barone vostro nonno. Certo, ma rimanete sempre figli naturali in Alavanna. Baronessa, te ne sembra voglia pazzia. No, no, un catalirico vero. La diurna mi venette a trovare Teresa, sapete? A nutrirci la buon'anima e fratma. E marito, papà, che aveva visto cucchi stucchi, che rubava per i soldi a rindacascetta e l'elemosina per l'anima del purgatorio. Ma Teresa aveva detto no, Gatellina, ma la cosa crostata. State zitta tu! Statevi zitta! Zitta! Zitta! Iata! Andate a pigliare un bicchierino di rosolio per Don Gatellina. Baronessa, il rosolio è finito. Perché voi siete bevuto tutto quanto voi. Però ci stesse un po' che nocilla, e chi lo buona? Ecco, un bicchierino di nocilla lo gradirei assai. Andate a pigliare un bicchierino di nocilla per Don Catalino che n'ava bisogno. Baronessa? Com'è, come non è, tornammo a noi. State va accorto quando ha rubato. Io mo sono una povera malata. Non mi ricordo più se siete stato voi, il vostro sacristano. Ma state va accorto. Ma non sono stato io. Ma potete mai credere che gli va a rubare in da cassetta per l'elemosina? E oltretutto che interesse tenesse? La cassetta a me viene. E sarà stato sacristano Amedeo. Amedeo? E il cavo voleva? Amedeo sacristano. Non lo voglio in da parrocchia mia, va bene? E ve l'ha fatto capire tutto in maniera. Ma voi pare che a starecchie ci siete surda. Ma non tenete la sensibilità di capire che una parola sciusciata, buttata là, è un desiderio, una preghiera. Ma che va fatto che lo bravo giovane volesse sapere? È piccerilla, è creatura ancora, e tene già due figli a raccambare. Secondo me ha roba, e poi non mi piace. Ma baronessa, non lo conoscete nemmeno, e se lo vedeste vi incanterebbe. È un angelo. Sarà un angelo, ma te non ho menuriavola. Amedeo, come un Savoia. Non ne voglio un Savoia fu sacrestano in da parrocchia mia. Isa Daniele, oggi 30° anniversario della scomparsa di Annibale Ruccello, ma Annibale continua a restare insieme a noi. Quello è certo, assolutamente sta insieme a noi sempre, e devo dire che con me ci sta veramente sempre, anche quando sono in camerino a fare altre cose, altri spettacoli, perché comunque per me è stato, non so, un amico, un fratello, una persona straordinaria che ho potuto conoscere, perché ha scritto delle cose bellissime ed è riuscito appunto a far sì che una commedia appunto come Ferdinando, anche se lui poi a un certo punto ci ha lasciati purtroppo, io ho cercato di portare avanti il più possibile per poter far sì che i giovani dopo 10 anni insomma, avessero più anni per poter venire a vedere questo spettacolo. L'ho fatto per 3 anni di seguito tutto questo, e quindi per me è una grande mancanza, però io me lo sento sempre attorno. Secondo me il modo giusto di ricordarlo è continuare a fare i suoi lavori. Quindi si dovrebbe attivare molto di più questa cosa che stranamente non viene fatto abbastanza. Secondo me invece dovrebbero, ecco, appunto, probabilmente quest'anno si farà Ferdinando, non con me, con un'altra attrice, con un'altra compagnia, e questa è una cosa che mi rallegra, perché Ferdinando è vero che è una delle sue più belle commedie, però ci sono altri testi che sono straordinari e si potrebbero rifare, quindi per me la cosa più bella da fare per lui è questo. Napoli canta il mor, cucchi lu mar argento, cucchi lu cielo tinto, cucchi lu sole bianco. Napoli canta si manza, Napoli canta si manza, che sta morendo. Napoli è come un suono, città più bella, che vive sempre in festa e odia la protesta. Napoli canta si manza, Napoli canta si manza, che sta morendo. Ballare sente già malinconia, da poco cagna sta città. E se trascina stiente, sta enorme monumento. Napoli canta sì, ma non sa, Napoli canta sì, ma non sa, che sta morendo. Ma i scugnizzi correrà via, un luogo chino da felicità. Trascina stiente, sta enorme monumento. già ferita e se trascina stiente ste enorme monumento. Napoli canta si manza, Napoli canta si manza che sta morendo. Napoli canta e muore, Napoli è già ferita e se trascina stiente. È stato difficile lavorare con un'attrice come Isa Danieli? No, proprio no, per Nolante è stato facilissimo. Uno, perché credo che sia di una sensibilità e di una umiltà unica, però contemporaneamente di un'intelligenza unica, per cui è una preziosa collaboratrice, senza mai però soverchiare i ruoli. Cioè è un'attrice intelligente che sa dare dei consigli giusti non solo al regista ma anche ai partner, quindi finisce per aiutarti, per sollecitarti molto. E poi è un'attrice che pretende molto, e poi c'è una cosa bella, non è ansiosa, c'è una donna serena in scena, in prove. Cioè, mi sono divertito, abbiamo fatto delle prove molto al di là degli orari sindacali di prova, abbiamo iniziato spesso a provare alle 11 mattina e fino a sette generazioni. Invece verite no, stiamo talmente sazi, abbuffati, dorsate mangiare, ricchezze, bene, si è schiattata. E damma, damma, damma, damma. I palazzi sono cari, gli usurai ci rossano, e terra vanno a rovina e voi, a gente come voi ingrassata. Però la roba non stava fa male, mi rimane un colpo stomaco perché non ci si è abituata. E poi perché vi sentite in colpa? In colpa con chi solo si può permettere di godere bene, con noi. E perciò, quella catenita, quella che c'ha vita stracciata, la vita avrei come la vita andosso qua. Siete entrati subito nel vivo del mondo poetico di Annibale Roccello ascoltando una clip tratta da Ferdinando. Se qualcuno di voi è appassionato di teatro ha potuto riconoscere la grande Isa Danieli che ne era la protagonista, e la stessa voce l'avete sentita parlare di Annibale Roccello, cioè un'intervista a Isa Danieli che parla del suo lavoro con Annibale Roccello diversi anni dopo che questo si è svolto. Poi avete sentito un intermezzo musicale dalla compilation Napoli Segreta, Donatella Viggiano che canta Napoli canta e muore, e infine avete sentito una rara intervista a Annibale Roccello che parla per l'appunto di Isa Danieli. Lo guida 30 anni senza Annibale Roccello, quanto manca al teatro italiano? Credo che come autore manchi molto, anche se diciamo le sue opere sono molto rappresentate e quindi diciamo ha continuato in qualche modo a essere presente sulla scena, diciamo. Manca perché ci manca quello che avrebbe potuto ancora scrivere sia come drammaturgo ma anche ancora mettere in scena con la genialità anche del regista, perché era fondamentalmente, come amava definirsi lui, un mettitore in scena, quindi preferiva un ruolo operativo sulla scena piuttosto che quello là, diciamo, più defilato di drammaturgo. Io quello che penso, e per la verità confido molto nella capacità, e sono sicuro che questo accadrà, che la generazione che non lo ha conosciuto, proprio perché non lo ha conosciuto, in qualche modo non è contaminata, influenzata dall'aver visto le sue opere, sia in grado di reinterpretarlo anche in chiavi lontane forse dal già visto, e questo potrebbe essere veramente un modo per continuare poi in maniera più viva, ecco, il ricordo di un drammaturgo. La cosa migliore è quando va in scena e quando lo mette in scena qualcuno che non l'ha neanche conosciuto. Questo secondo me. Ma lo sapete che era proprio buono? Grazie a voi. È la mia passione fare il caffè. E la volete una sigaretta? Però veramente io ne fumo una ogni tanto. Comunque, vi tengo compagnia. Speriamo che arriva presto questa telefonata. Speriamo. Anche perché ho lasciato sola Rusinella. E mi dispiace. Quella poi ci viene subito la malinconia. Vivete con un'amica? No, signora. È meglio che un'amica. Ma è una gatta. E se non te ne sa essa? E quando è bellissima? A sera, quando mi ritiro. Casa una bene Ambrosina vicino e fa ron, ron. Rusine, righio, che era bella la mamma. E essa zitta zitta s'acquieta. Se ne viene in braccio e sta là. Ci verimo poco la televisione. E poi ce ne andiamo a cuccare tutte e due. E che stai a vita? Ovvero se non te ne sa essa, a essa ha la fede. Certe sere mi sento così sconsolata, ma essa è così bella che mi fa scordare tutto cosa. Certo, che è una grande comodità avere in casa una gatta. Io però, signora mia, non ne supporto proprio. Io sono sempre appresso a loro, poi sporco dappertutto, cagano, pisciano, fetano! No! Ma quella è la mia, è pulita, sistemata, fa il servizio soltanto per... Non avete tanta pazienza! E avete sentito questo fatto del maniaco? Certe sere mi piglio una paura a tornare da sola a casa. Ah, io non ci credo proprio, secondo me non è vero proprio niente. Ma come? Quello l'ha detto pure la radio. E l'ha detta la radio, e camma fa? Secondo me è trovato una scusa per diffamare il quartiere. Guardate, cronaca vera questa settimana il fatto non lo riportava proprio. Ma volete voi che un giornale come questo non lo dava una notizia del genere quando era vera? Non lo so. Io poi questi giornali qua non li leggo. Io quando mi sono letta la torre di guardia e qualche volta grazia per qualche ricetta. No, a me grazie mi piace proprio, è così inzifido come giornale. Stop è un bel giornale, serio, informato. Ci sono tutti quanti i fatti che una vuole sapere. No? E che telefonata aspettate? No, no, no, così. Per curiosità, non per altro. Ah, signora mia, è una storia lunga. Permettete? Sapete, quando non tengo che fare, mi diverto a fare corredini per bambini. Mi piace molto, soltanto che non tenga a chi ruarli. Allora sapete che faccio, però non ridete, eh? E prova a Rusinella. E prima tempo, essa smaniavano poco, ne voleva un gol. Ma mo si è abituata. E mo ci piace pure a essa. E quanto bellella, con una cuffietta, con un maglioncino, Rosinè, Rosinè, Rosinè. Ma che vi stavo dicendo? Ah, sì, Ho telefonato. Veramente mi piglio un poco vergogna a dirlo, perché quella è stata una pazzia che ho fatto. Insomma, ho messo un annuncio sul giornale, questo, 3 mesi fa. E mo sto aspettando le risposte. Finora non è arrivato ancora niente, ma quella è la colpa è dei disguidi. Ma oggi io mi sento che parlerò con la persona giusta. Eppure voi lo tenete, il fidanzato? Gesù, il fidanzato, quello ci dobbiamo sposare. Si chiama Franco, signora, è un ingegnere di Genova. Signore, che bell'uomo, fine, distinto, e poi mi vuole un bene pazzo. Io non lo so che cosa ci ho fatto, ma quello stravede per me. Lui ogni tanto me lo dice pure, fa nell'intimità, dice: Jennifer, tu qua mi hai fatto una fattura. Io da quando ti conosco sono un'altra persona. Che lo vero ci stanno le femmine che fanno le fatture, eh? Mettono il ciclo dentro al caffè, ma io non ho mai voluto farlo, perché dico io, guardate se io ragiono bene. Ma che sfizio ci sta a sapere che un uomo ti viene appresso, non perché ha scelto, ma perché tu l'hai costretto? E mo' verite. Sta un momento che avesse telefonato. Aspetto una telefonata sua da un momento all'altro. E la volete un'altra sigaretta? No, grazie, signor, vi ringrazio. Quando ne ho fumata una, basta. Io poi fumo così una volta ogni tanto, non tengo il vizio. Questo è Franco. Pronto? Chi? No. Avete sbagliato numero. E chi volevano? E che ne so? Posso mettere adesso a chiedere alla gente quando sbagliano a chi vogliono. Ma forse era per voi. Ma ora non ci ho pensato proprio. Come mi dispiace. Non fa niente. Non vi preoccupate. È segno che anche se era per me, non era destino. Perché voi sapete, io ci credo al destino. Quando una cosa è segnata, è segnata. Quell'uomo, per esempio, con me, che ho incontrato a Rusinella, una sera. Pronto? Nadavo da voi, avete sbagliato! Dicevate? Niente. È questa qua la fotografia del fidanzato vostro? Sì. Cioè no, doveva portarmela da un momento all'altro, è questione di giorni. È meglio che me ne vado. Si è fatto tardi e non vorrei lasciare troppo solo. A Rusinella, però, madonna mia signora, che attaccamento per questa gata. E voi me ne dovete liberare. E voi così pure un ipotetico uomo lo fate ingelosire. Ma quello dice: Gesù, ma tu vuoi più bene la gatta che a me? Ma quello così si schifa e se ne va. Grazie, signora. Arrivederci. Signora! No, niente. Non fa niente. Arrivederci. Ha restato un altro poco, può darsi che arriva la telefonata. Non fa niente, l'aspetto a casa, arrivederci. Arrivederci. Comunque non vi preoccupate, perché se arriva io vi chiamo, tanto ho capito dove capitate. Voglio tornare, voglio avere. Come tempo può arrubare tutte le colori in da via che gira per la città e vaga a cercare occhi come olive nero che guardano senza parlare terra che non va. Dormire e non che sarà, che non va a fare ni con mana malinconia, la voce ma fa tremare, forte si fa sentire, e dolce così per chi vede. Sentito una breve intervista a Lello Guida, che è stato collaboratore e amico anche di Annibale Ruccello. Poi avete sentito lo spezzone, un'altra opera importante, da Le Cinque Rose di Jennifer, nell'interpretazione data da Arturo Cirillo e Monica Piseddu. Dopodiché avete ascoltato una voce, credo, nota della canzone napoletana, quella di Teresa Di Sio, che qui non solo come nota cantante napoletana per l'appunto, ma anche come prolessi di un'altra voce appartenente alla sua famiglia, ma anche al teatro di Annibale Ruccello. A San Martino rinderei. Uffa, ma si loggia appicciando in un momento fa. E poi oggi è venerdì santo e non si canta, altrimenti si può pensare a Gesù. Ah sì, e tu prima lo stavi cantando? Oh vero, e me ne sono accorto, oggi peccato pure per colpa tua. Ma colpa mia, tu sento buono. Ma insomma, voglio dire su cosa, non mi finisco a sentire. E beh, tu scassa su cosa, tu scassa. Quando sei scocciante. Uffa. Ma direvi, sto scucciando, no? Ah, oh, mamma mia, due giovani pronti mi ha fatto venire. Uffa. Marone, chi è? Oh, dentro a questa casa non sono padrona di niente. Guardate che le parla ancora. I che c'è tene, sta pavazzella, una stupagliosa e ruricianna. Uè, ma sai che ti sei troppa spunduta. Ah, e tu mo trovi un marito, sì, sì. Solo un locco con mappata ti può trovare, tieni qua, di... Un uomo che dorme sempre. Vedete se cose che ogni sette sera da foglietta nata a volta. Ma rosta scritta, a rosta scritta. No, ma io lo divorzio. Chi lo se ne approfitta che sono cattolica, apostolica e romana? Se non sa quanto tempo l'avesse lasciata. Chi lo se meritava una femmina con i miei corni la mattina a sera. Un uomo incapace a niente. O dorma o se schiaffa innanzi che la televisione e ti saluto, oh Maria. E vabbè, aveva ragione mamma. Uè, e tu che fai con questa scopa a mano? E ti volevo dare una mano. Ma qua mano, qua mano. Oggi è venerdì santo e non si scopa in terra fino a sabato la gloria. Se no scopa in faccia a Gesù. E non si ride, altrimenti si fa offesa al dolore di Maria. Ma bella, comincia a piccia illumina. Ma a questo modo hai brigida. Ma allora si può cantare, mamma? No, non si può cantare. O se no pataterna si arraggia. E chissà qua castighi più grossi ci fa capire in capo all'angoppa. Hai preparato il grano papastiera? Sì, sì. E allora vieni a casa e fatti fare serenghelli, eh? Ah no, mamma, serenghe non voglio fare. Come no? No, mamma, serenghe... Niente, serenghello! Non voglio fare... Su mamma sta serenghe, ma qua c'è un bambino, quando uno piglia c'è un... Ma mi metto a paura! Ma che si mette a paura, la capra creatura? Voglio fare serenghe! Niente, vitamine fanno bene, pani mie. E tu, figlia, mi stagni tre d'ero in danolietto. Sarò sangue fraccia di papa. Ma voglio fare allora, in già faccia ti mando nei. Guarda a me, uè. Oggi sempre schiattate di salute. A famiglia mia, mai una medicina. Invece viste sono repate. Secche, giallute, indebolute. Pare sempre che stanno in dengola, in dengola. Che ne è? Ma che fatto l'indagoscio, ma non c'è... Allora doveva non ti muovere, che si spezza là che fa soprazione, Madonna mia. Santa, Antonio mio beato, tu che gemma di splendore quel bambino che avete in mano, facite mille che tu favore. Santa, Antonio mio benigno, ti pregate, non sono degno di tutti i miei bisogni. E tanta maronna e chiacchiere, manca ci voglia. Maronna mia. Ma guarda a volte per fare una seringa. Che re, ti fa male ancora. Ah, sì, no. Senzipata. Non pezzo di chilo. Sì, senti, belle mamma, fammi un piacere, pigli che li tre globi che stanno in do mobile, loc. Che? In do mobile stanno tre globi, pigliela. Marone, che sa fila di fa che si cangò? Aia. Che re? Ma che si c'è gata? Il rigo mobile che la guarda in do scatola, maronna mia. Una figlia ha già fatto, è pure scema. Siete. Brava, l'hai trovata. Santa Lucia, ti ringrazio. Ma fammi un tuo piacere, belle mamma. Mettila in coppia e lampadina e barcone, va. Che a chi la pata te ne facesse una completa. Ricchi, io sapevo che aveva passato la processione a lotta. Che ci perdeva, ci mettere pure il palla coppa. Che ci perdeva. Uè, a chi stai guardando? Oh, la signora Gardenia. Bleh. La signora Gardenia ha fatto una spazia luminare che mi sembra piedi grotta. E vabbè. E a reggiute, padre? O cinema. O cinema! E viene arrestando, maronna mi sarà aiuta a fare un echile film sporche mo. Sulla porcaria se ne va imparando. E ma una bomba ci mettesse sotto a quel cinema. Ma c'è se tomba tutte le cose per là. Ma vero? Stanno già a cavo, maronna mi può zittarci di due all'ora. Fa un prezzo così palle. Sì, però le palle le doveva mettere papà. Ma vero, le doveva mettere papà, rammaccare, hai mettia. No, illumini, ve li in testa. Ma non può fare niente che sta. Ecco qua. Ecco qua. Ti hai pigliato meglio, sì, sempre che sta fai. Che mamma illuminati. Illumini. Padre, figliuolo, Spirito Santo, amen. Uè, uè, padre, figliuolo, Spirito Santo, amen la giariceria. E poi in ginocchio, no, bisogna dirla. Ah. Padre, figliuolo, Spirito Santo, amen. Ave Maria, grazie a me. Ave Maria, madre benedetta, te moglie di Cristo, frutto ventre tuo, Gesù, Santa Maria, madre Deo, pro nobis peccatore. Uè! E che pigliate Elisa, te ha pigliato il treno. E quando ne mai fai il danio, piano piano. Padre, figliuolo, Spirito Santo, amen. Ave Maria, grazie a te, Romino, sei con madre benedetta, te moglie di Cristo, benedetta. Hammer in the evening. in the morning, I'd ring it in the evening. Oh, oh, oh, oh. I'd ring out danger. Forse vi siete immaginati, la voce di famiglia a cui alludevo prima parlando di Teresa di Sio era quella della sorella Giuliana, qui ascoltata come interprete di Notturno di Donna con ospiti di sempre di Annibale Ruccello, che tra l'altro è l'unico spettacolo tra quelli che ho fatto sentire stasera che ho avuto l'occasione di vedere dal vivo a Milano qualche anno fa. E avete sentito forse in sottofondo Datemi un martello di Rita Pavone, che è tra le canzoni che la casalinga inquieta Adriana ascolta durante questo spettacolo, e quella che avete sentito dopo è la versione originale, quella ovvero cantata da Pete Seeger, che si intitolava alla lettera proprio If I Had a Hammer. E sotto di me state sentendo sempre da Napoli Segreta Quagliù di Pino Amoroso, che è anche il pezzo con cui vi saluto. E se questa puntata segue la scansione abituale di Arebur e Ulisse contro tutti, mi state ascoltando che è la vigilia di Natale, e quindi auguri, e che Dio ce la mandi buona, è proprio il caso di dirlo. Buonanotte. Ma che finita la settimana, andiamo le ragazze, ce ne andiamo in discoteca, anche per noi domenica Yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yamma pare, yam La Anthony Perkins Productions vi ha appena presentato a Rebur, circa 45 minuti ai margini dell'arte.